Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, finalmente sono le 11.07, siamo insieme. Oggi devo dire con una piccola novità, perché il dottor Confalonieri non è qui in studio con me, bello e sorridente, ma è in linea con noi. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Io ho detto bello e sorridente, bello non direi, sorridente anche sorridente, in linea. Sì. Va bene. Sì. Per il resto tutto confermato. Peter Bescape regge la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, e subito i nostri titoli del sommario. Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala. Ma abbiamo qualche consiglio per te. Germe di grano, un integratore naturale. Chi dorme bene, vive sano e va lontano. Nona giornata del dormire sano. Insomma, abbiamo fatto i conti con la primavera, devo dire che, insomma, speriamo arrivi, e cresce la voglia di uscire, di praticare sport all'aria aperta. Così già dalla scorsa settimana col dottor Confalonieri avevamo deciso di parlare di bicicletta, e ormai va molto di moda. Si potrebbe dire, dottor Confalonieri, che siamo anche un po' un popolo di ciclisti, o no? Siamo sicuramente un popolo di ciclisti. E tutto sommato oggi non ci limiteremo a parlare della bicicletta in senso classico, ma vorremmo parlare delle due ruote senza motore, nelle diverse accezioni che ormai ci sono, quindi la bicicletta, la mountain bike, lo spinning, la bicicletta in acqua che si sta sempre più diffondendo, definita anche come idrobike. Insomma, vorremmo parlarne un po' a 360 gradi. Quindi, perché sceglierle, che vantaggi ci possono dare, quali indicazioni ed eventuali controindicazioni, ma soprattutto tanti consigli per fare attività sportiva in pieno benessere. 800 24 0024, come sempre ci facciamo dare una mano da grandi campioni che ci aiutano, ci danno delle indicazioni preziose che poi il dottor Confalonieri amplia e commenta. Abbiamo raggiunto, Laura Vanossi ha raggiunto, per parlare di mountain bike, niente po' di meno che Marco Aurelio Fontana, che è campione di mountain bike e si è classificato quinto alle Olimpiadi di Pechino. Se dovessi dare un consiglio a un ragazzo, un adulto o una ragazza che deve avvicinarsi a una disciplina sportiva o comunque a un'attività, io consiglierei il ciclismo fuori strada, soprattutto nella disciplina della mountain bike, perché secondo me è un'attività che ti fa stare a contatto con la natura, ti fa vedere diversi paesaggi, e in più ci sono diversi sentieri in Italia che sono segnati, quindi è un'attività che si svolge in sicurezza ed è molto divertente. Per una persona che deve avvicinarsi all'attività della mountain bike, io consiglio di partire con un tipo di bicicletta che non sia troppo impegnativo. Se uno deve iniziare, l'importante è che sia un mezzo funzionale, che faccia comunque una o due uscite alla settimana, nella quale vada su sentieri comunque tracciati, ma in ogni caso un'uscita di un'ora, un'ora e mezza per iniziare può andare bene. Se volete divertirvi ancora di più, io vi consiglio, una volta che avete preso un po' l'esperienza con la mountain bike classica, in uno dei bike park che stanno nascendo in Italia, che sono delle piste, proprio vere e proprie piste come quelle da sci, dove troviamo percorsi di diversi livelli di difficoltà. Potete trovare anche salti, passerelle, drop, tante cose divertenti che a me piacciono molto e ve le consiglio. Dottor Confalonieri, lei le ha provate? Io la mountain bike in estate ogni tanto la uso, sì. Tra l'altro sono molto contento di questa testimonianza di Fontana, che è un grande esempio per tutti, perché è un ragazzo estremamente intelligente che sta facendo risultati eccezionali, e difatti ha detto due o tre cose molto importanti. La mountain bike, per cominciare, è molto più semplice della bici da strada, anche per chi assolutamente non è allenato o è in sovrappeso o ha delle gambe relativamente deboli, e la si può utilizzare all'inizio anche su percorsi asfaltati, proprio perché è meno impegnativa della bici da strada, e poi gradualmente, quell'uno o due volte a settimana correttamente indicato da Fontana, cominciare a sfruttarla nella natura, che poi è la sua grandissima qualità, no? Ci consente un rapporto con la natura straordinaria e ci consente anche di divertirci molto in salita, in discesa, su questi percorsi misti. Però, dottor Confalonieri, noi abbiamo detto che avremmo parlato delle due ruote, le ha specificato senza motore in tutte le sue forme, e allora dai percorsi della mountain bike passiamo al ciclismo su strada. E Laura Vanossi ha raggiunto Davide Cassani, che ci racconta i punti forti, questo ci piace, ma anche i punti deboli. Andiamo. Bisogna avere una bicicletta giusta con le misure adeguate, perché se queste fossero sbagliate potrebbero sopraggiungere dei problemi alla schiena e anche alle gambe. La cosa essenziale da fare è cominciare con estrema gradualità, non si possono fare subito 50-60 km, ma cominciare con 20-30, poi piano piano aumentare settimana dopo settimana. L'ottimale sarebbe uscire 2-3 volte a settimana, proprio per avere un certo grado di allenamento che ti permette poi di stare bene soprattutto e poi di trovare dei giovamenti. Secondo me la bicicletta fa benissimo perché si può fare dai 5 agli 80 anni, non è traumatica, non appesantisce le giunture, le ginocchia, è veramente uno sport ideale, anche perché poi sotto il profilo della salute dà la possibilità di perdere peso, è ideale anche per il cuore, e quindi secondo me ha tutta una serie di fattori positivi che incidono sulla salute e sul benessere, perché io che di chilometri ne ho fatti 700.000 ancora adesso trovo piacere, giovamento e mi trovo benissimo nell'andare in bicicletta. L'errore più comune è quello di voler esagerare, quindi l'ideale sarebbe avere un cardiofrequenzimetro, controllare le pulsazioni cardiache e cercare di misurarle, nel senso che l'allenamento esagerato, l'allenamento a tutta è sempre controproducente. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio 24, comincia la primavera, cominciano le belle giornate, il sole, il caldo, e l'ideale sarebbe incontrarci in bicicletta. Dottor Confalonieri, pensi un po' se io e lei in bici lo incontrassimo? Faremo fatica a stargli appresso. Sì, infatti, ma ci passerebbe davanti. Sulla Senta, primavera, sì, so, ma io volevo, mi scusi, dottore, io volevo chiedere una cosa che ci stanno chiedendo anche numerosi ascoltatori. Questi, per iniziare questi 20-30 chilometri, per iniziare? Sono parecchi. Ah, no, perché io mi sono, a me era subito venuto, dico, ma caspita, 20 chilometri, poi ho visto che anche diversi ascoltatori hanno notato questi 20 chilometri, li hanno sentiti un po' troppi, allora mi sono un po' rincuorata, ma volevo chiedere a lei, all'inizio, quanti chilometri si possono fare? Io ragionerei in termini di tempo, perché il chilometro è un parametro molto relativo, perché è collegato alla velocità che riusciamo ad esprimere. E soprattutto all'inizio, se non siamo allenati, ovviamente in quei 30-40 minuti che dovremmo dedicare alla prima uscita fatichiamo a raggiungere i 20 chilometri, perché non andiamo certamente a 40 all'ora. Ecco. Quindi lavorerei in termini di tempo, iniziamo con 30-40 minuti e poi gradualmente, così come diceva giustamente Cassani, incrementiamo il chilometraggio, l'impegno, la durata dell'allenamento, in modo tale che l'allenamento sia anche sempre efficace. Ma oggi noi vorremmo parlare anche di spinning, va molto di moda, ci sono persone che impazziscono per lo spinning, vanno proprio in palestra con quell'obiettivo, e abbiamo raggiunto Fabrizio Toselli, che è formatore degli istruttori di spinning della Federazione Italiana Spinning. Sentiamo. Spinning è un viaggio virtuale che si fa a tempo di musica su una bicicletta stazionaria. Allora, lo spinning è un allenamento, una lezione di spinning dura circa una cinquantina di minuti, adatto a tutte le tipologie di utenti, quindi sia l'utente fitness medio che va in palestra per fare attività, sia per chi ha delle necessità un pochino più particolari come il dimagrimento, piuttosto che l'allenamento agonistico legato anche al ciclismo amatoriale. Composta sostanzialmente da quattro parti, che sono quattro parti, una legata all'altra, quindi uno inizia il suo percorso in bicicletta e pedala per una cinquantina di minuti. La prima parte è una fase di riscaldamento, dove con andature di pianura, quindi un'intensità di pedalata medio-bassa, per una decina di minuti porta il proprio muscolo, il proprio cuore a crearsi quella condizione per potersi allenare. La parte centrale, la seconda parte, la parte attiva dell'allenamento, quindi quindi l'allenamento vero e proprio, e là dove andiamo a cercare degli obiettivi diversi che sono mirati a un certo tipo di allenamento piuttosto che un altro, viene svolta in modi assolutamente diversi, anche se sostanzialmente molto simili, però ognuno con obiettivi diversi, a seconda che sia un allenamento di eventualmente di forza o, come abbiamo detto prima, di dimagrimento, o per l'utente medio del fitness. La terza fase è quella che riguarda la fase di cool down, quindi del faticamento finale. L'ultima parte è la fase importante dello stretching, quindi lo stretching scendendo dalla bicicletta per recuperare e allungare le parti che hanno lavorato sostanzialmente. Questo è il concetto di spinning. Dottor Confalonieri, sì. A lei lo spinning piace? A chi lo consiglia? A me non piace tantissimo, se devo essere sincero, anche se c'è stata una bella evoluzione anche in questa disciplina. Diciamo che il grosso problema o rischio che può esserci collegato allo spinning è il fatto che, essendo lezioni di classe, sfrutta molto l'elemento emulazione, quindi tutti tendono a impegnarsi al massimo, c'è questa sorta spesso di esaltazione collettiva, e quindi si rischia di non rispettare quel concetto di individualità che tante volte abbiamo raccomandato ai nostri ascoltatori, no? Si cerca di fare sempre di più per essere in linea con il gruppo, per rispondere alle sollecitazioni dell'istruttore, e questo può rappresentare un rischio. Uno spinning con percorsi individualizzati in funzione delle caratteristiche di ciascuno invece un ottimo esercizio. Allora, dottor Confalonieri, quindi ai nostri amici da casa chiediamo di raccontarci le due ruote che preferiscono. Sì, di raccontarci quali preferiscono, perché le preferiscono, se hanno raggiunto gli obiettivi che si proponevano in termini di benessere globale, piuttosto che di salute, piuttosto che di dimagramento attraverso questo sport, se viceversa hanno avuto dei problemi particolari. Cercheremo di aiutarli o nella scelta o eventualmente nella risoluzione dei loro problemi. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Conoscete il germe di grano? È una parte del chicco che viene persa durante il processo di raffinazione, ma che noi oggi vogliamo recuperare per imparare a conoscere le virtù e valutare nel caso se è necessaria, se può essere utile per la nostra dieta quotidiana. Ne parliamo col dottor Marco Temporin. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno Nicoletta. Nutrizionista e specialista in medicina preventiva. Dottor Temporin, allora parliamo di questo germe di grano. Sì Nicoletta, il germe di grano deriva dall'embrione della parte del grano e può essere ricavato sia dalla radice che dal germoglio. Queste piccole scaglie che si trovano in vendita nei negozi di alimentazione naturale sono utilissime come integratore, soprattutto anche in questa stagione. Il fatto di questa possibilità che ci viene data dal germe di grano è determinata dalla sua concentrazione di vitamina E, in quanto questo cereale ne è ricchissimo. Un alimento che è un integratore naturale è ricco di questa vitamina E, che è una vitamina amica di? La vitamina E è un po' un'amica di tutti, è una vitamina liposolubile e può essere utile sia per i giovani, per chi fa molta attività fisica e sport, ma soprattutto per gli anziani, in quanto la vitamina E aiuta le persone a prevenire i problemi cardiovascolari. Diciamo che, vista la stagione, è molto utile soprattutto il suo effetto antiossidante, che si esplica nella pelle e nei capelli. Ci insegni un po' a utilizzarlo. Come si consuma, in che quantità, per quanto tempo? C'è da dire che è un prodotto assolutamente economico, si trova in queste forme, in queste scagliette, e può essere utilizzato una o due cucchiai sia al mattino nello yogurt con altri cereali, oppure a pranzo, nella cena, in insalate, nelle minestre o nelle zuppe, addirittura, soprattutto anche per chi può aver problemi con colesterolo o d'altro, può essere utilizzato qualche cucchiaio al posto del grana, avendo quindi un'integrazione di vitamina E senza eccedere con il colesterolo. Perché è anche saporito, dottor Temporin? Nella pasta io l'ho provato, un po' d'olio, un po' di prezzemolo, qualche aroma e un cucchiaio di germe di grano, è una pasta eccezionale. Quindi, dottor Temporin, lei cucina anche? Qualche volta, si posso. Sì. Bene, allora ci segua, perché oggi noi parleremo proprio di cucinoterapia. Dottor Temporin, la saluto e la ringrazio, buona giornata. Arrivederci Nicoletta. Pronto soccorso. Anche lei, dottor Confalonieri, è un bravo cuoco. Sì, diciamo che sono un bravo cuoco, soprattutto su alcuni piatti, e per me la cucina ha assolutamente un effetto terapeutico. Bene, proprio. Bene, di questo parleremo nel corso della trasmissione, proprio dedicheremo uno spazio a questa cucinoterapia, ci raggiungerà Roberta Schira, ma invece prima di metterci a tavola pedaliamo e abbiamo Jamel che ci chiama da Milano, 824 0024, benvenuto. Pronto? Eccoci, siamo qui. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io chiamo da Milano, c'ho mia figlia che ha 15 anni e fa atletica, e il suo allenatore le impedisce di andare in bicicletta, volevo sapere se ha ragione o no. Allora, chiediamo subito al dottor Confalonieri, perché questo divieto? Dottor Confalonieri. Delle motivazioni ci sono legate al fatto che le caratteristiche dell'impegno del reclutamento muscolare sono molto diverse. Quindi io non sarei per un divieto assoluto durante le fasi iniziali, introduttive della stagione o durante il periodo di recupero, la bicicletta può essere una buona integrazione con la corsa. Però indubbiamente in fase di allenamento più specifica o in fase di gara è meglio evitare la bicicletta, perché rischia di ridurre gli effetti positivi dell'allenamento a piedi. Ci sono altri casi in cui è meglio, per chi pratica un'attività sportiva, ridurre o insomma andare a salire in bici solo in casi precisi? Ma direi che soprattutto con la corsa che ci sono queste controindicazioni ad abbinare le due cose, anzi per il resto la bicicletta è un'ottima attività in una filosofia di cross training, perché ha degli effetti sul sistema cardiovascolare, quindi sull'allenamento della resistenza di base, è sicuramente importante e non porta a sovraffaticamento articolare e muscolare come per esempio la corsa. Per esempio nel nuoto è indicato assolutamente integrare la bicicletta all'attività in piscina, proprio perché consente di allenare in modo diverso senza creare problematiche a livello delle gambe piuttosto che della colonna. Invece un ascoltatore mi scrive: il ciclismo non è uno sport equilibrato, sviluppa le gambe ma non le braccia, come il tiro con l'arco ma al contrario. Dottor Confalonieri. Sì, prego, il tiro con l'arco è un po' forzato perché l'impegno muscolare del ciclismo è sicuramente diverso, però è vera l'osservazione, è uno di quegli sport che hanno un condizionamento muscolare localizzato e infatti purtroppo uno dei buoni dei ciclisti che hanno uno sviluppo delle gambe molto superiore a quello del tronco. Quindi se è uno sport completo è indicato sul piano degli effetti cardiovascolari e sul sistema respiratorio, sul sistema circolatorio, sicuramente è uno sport poco equilibrato dal punto di vista muscolare, e se uno ci tiene alla forma e all'aspetto fisico dovrebbe magari integrarlo con un'attività in palestra o per esempio con l'utilizzo del remo ergometro piuttosto che delle barche che sviluppano invece in modo specifico la parte superiore. Andiamo a Pescara. Ci aspetta, no. Allora, mi dicono dalla regia che Stefano da Pescara è caduto. Dottor Confalonieri, lei ha detto che la mountain bike potrebbe essere quasi un po' preparatoria, il passo prima per il ciclismo su strada. È un consiglio che possiamo dare a tutti, a chi ad esempio con la primavera vuole rimettersi un po' in forma e quindi sceglie un'attività sportiva gradevole come quella della bicicletta? Sì, la mountain bike, perché richiede un impegno ancora minore, consente di tenere proprio di applicare delle forze molto basse, di superare agevolmente anche leggeri tratti in salita che magari troviamo nei nostri percorsi e che con la bici da strada possono risultare impegnativi. In assoluto poi l'attività in bicicletta è forse l'attività più universale che esista, perché non è difficile da un punto di vista tecnico come può essere il nuoto e non ha le controindicazioni per esempio per i soggetti fuori allenamento completamente o per i soggetti in sovrappeso o per i soggetti che hanno problematiche articolari, non ha le controindicazioni che ha per esempio la corsa. Quindi direi che se uno vuole cominciare a fare qualcosa è senz'altro l'attività più facile da fare e più alla portata di tutti, senza controindicazioni specifiche. Daniele ci chiama da Ancona. Buongiorno Daniele. Buongiorno a tutti. Lei che cosa fa di bello? Va in bici? Allora, io vado a correre qualche volta oppure faccio ginnastica a corpo libero, ma così, molto approssimativamente. Vorrei fare una domanda al dottor Confalonieri. Certo. Vorrei sapere se la bicicletta è indicata o meno per chi ha problemi di schiena e che tipo di bicicletta usare. Grazie Daniele, bella domanda. Dottor Confalonieri, anche Cassani ha sottolineato che la bicicletta deve essere quella giusta, proprio per evitare problemi. Ne parleremo delle caratteristiche della bicicletta, come possiamo sceglierla. Ma rispondendo a Daniele, che cosa può suggerire? Sì, diciamo che non c'è una controindicazione assoluta per i problemi di schiena, come per esempio potrebbe esserci per altre attività. Diventa, perché è problematica la schiena, fondamentale scegliere la corretta posizione in bicicletta, proprio una posizione che garantisca la giusta linearità della schiena e non determini sovraccarichi specifici, soprattutto a livello lombare piuttosto che a livello cervicale, e rispettare quel criterio di gradualità di cui tante volte abbiamo parlato, cioè iniziare facendo molto poco ed aumentare con molta lentezza i carichi, proprio perché la muscolatura della schiena si adatti progressivamente alla posizione in bicicletta e quindi non nascano problemi particolari. In questo caso consiglierei la bici da strada, perché comunque dovremmo evitare qualsiasi percorso sterrato o sconnesso, proprio per evitare problematiche acute alla colonna, e quindi la bici da strada è una garanzia di asfalto e quindi di percorsi lisci. Mariella, prima di andare ai mercati, ci scrive: se si bruciano più calorie con un'ora di mountain bike, un'ora di bici su strada, oppure se si deve soffrire con lo spinning? Direi che si bruciano più calorie mediamente con lo spinning, proprio perché è un'attività più intensa. In seconda battuta potrebbe esserci la mountain bike, che ci impegna con una frequenza di pedalata più elevata, e in terza battuta la bici da strada. Siamo tornati insieme, oggi pedaliamo, parliamo di ciclismo da strada, parliamo di mountain bike, ma parleremo anche di bici in acqua insieme al dottor Franco Confalonieri. Dottore, di questo non abbiamo ancora parlato, dobbiamo parlarne. Sì, anche per quello delle novità e delle pratiche che si stanno maggiormente diffondendo. E però io non so come dorma lei, dottor Confalonieri. Male, bene, perché noi ne abbiamo già parlato lunedì di insonnia, di cattiva qualità del nostro sonno, ma oggi è la nona giornata nazionale del dormire sano, ne riparliamo per ricordare, ci sono degli appuntamenti, ma io vorrei anche dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori per dormire bene questo fine settimana. Ci proviamo. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno dell'ospedale Niguarda di Milano. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, oggi delle iniziative di cui poter approfittare, dottore? C'è la giornata dedicata al sonno in tutto il mondo, c'è una iniziativa molto importante anche in Italia, dove ci sono tutti i centri di medicina del sonno aperti al pubblico, in modo da poter capire cosa si fa in un centro di medicina del sonno, di avere dei primi suggerimenti riguardo a un problema specifico, in modo da poter avere qualche informazione in più su quello che è la disciplina anche della medicina del sonno, quello che possiamo fare noi per curare questi disturbi. Certo, questa è una giornata, ma è un anno intero, perché no? Sì, infatti la cosa bella di questa è che è una giornata che però si ripeterà, ci sono ad esempio gli specialisti danno a disposizione anche una chat da cui si accede dal sito dedicato al disturbi del sonno, che si chiama Morfeo Dormire Sano, e si risponderà per chat anche ai vari problemi che si possono presentare. Allora, dottore, risponda già subito ad un problema che è molto comune, lei che poi è uno specialista se lo sarà sentito dire tante volte. Ci svegliamo con la sveglia tutta la settimana, il sabato o la domenica, per chi insomma comunque riesce, vorremmo dormire un'oretta di più, un po' per recuperare il sonno che abbiamo perso durante la settimana. Non sempre ce la si fa, e se questo miracolo avviene ci portiamo dietro al mal di testa. Allora, ha un consiglio per i dannati del fine settimana che cercano di dormire e non riescono? Il consiglio è: ci sono delle persone che sono fortunate, possono tranquillamente dormire di più, adattare il loro ritmo sonnoveglia al weekend in cui si va a dormire più tardi, si sveglia più tardi senza problemi, ricominciano la settimana, ed altre che appena escono dal loro ritmo che si è presentato per tutta la settimana hanno quel sintomo che... ricordato, il mal di testa, una sensazione, pur avendo dormito magari anche un'ora in più, addirittura di avere ancora di sentirsi più stanchi di prima. Si chiama cosiddetta inerzia del sonno. Sì. Ed è un problema perché in effetti si perde quella bellezza di dire la bella dormita che si è fatta, che è stata più lunga, in realtà da un punto di vista qualitativo sembra apparentemente peggiore. Se il soggetto potesse, è proprio questo in realtà è indicativo del fatto che c'è probabilmente sotto sotto una deprivazione di sonno, e quindi questo dovrebbe far pensare che quella persona dovrebbe cercare di guadagnare almeno una mezz'oretta di più in ogni giorno della settimana, se durante il weekend ha questo problema. Ecco, quindi questo potrebbe essere un segnale che ci dice qualche cosa in più del nostro sonno e della qualità del nostro sonno. Nel caso, quando lo recuperiamo, sì. Ecco, nel caso, dottor Nobili, uno non riesce a dormire, scende, prende la bici e si fa un giro in bici. E noi ritorniamo al tema di oggi. Dottor Nobili, buongiorno. Buongiorno, arrivederci. Dottor Confallonieri, lei dice spesso di fare attività fisica al mattino. Per le persone che si svegliano presto, perfetto, no? È l'ideale, soprattutto per quelli che non hanno bisogno della sveglia, si svegliano naturalmente presto, c'è un tempo da impiegare. Questo tempo può essere impiegato utilmente, magari non con la bicicletta, perché soprattutto perché vive in città è complesso organizzarsi, ma però con la bike da appartamento, per esempio, è un'ottima soluzione. Sì, è così noiosina, però io ce l'ho, non la faccio mai. Beh, sì, è noiosa però. Lo so, però fa bene. Andiamo a Vicenza, vediamo. Franco, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo chiedere, io sono un appassionato di sinovico, una passione che ho preso quando facevo atletica e utilizzavo lo sci come alternativa, come allenamento alternativo. Sì. Adesso ho smesso di fare atletica, ma mi è rimasta la passione per lo sinovico. Volevo sapere se era più importante per d'estate, per tenere un po' il tono muscolare, fare la mountain bike o la bici di strada come allenamento in previsione dell'inverno di andare a sciare. Tenga conto che faccio un lavoro che non è assolutamente sedentario, anzi, cosa al contrario. Per cui cosa fa, Franco, lei di lavoro? Vi sto parlando da chioma di un olivo, per cui veramente? Sto parlando di olive, sì, sì. Bellissimo, che emozione. Dottor Confallonieri, lei non ha mai parlato con una persona come Franco? No, però in questo momento sono circondato dagli ulivi. Anche lei? Ma allora siete insieme? Sì, siamo in centro Italia e dalla finestra vedo proprio una piantagione di olivi. No, la domanda è estremamente interessante. Direi che lo sci da fondo e la bicicletta si abbinano perfettamente. Infatti moltissimi alternano questi due sport, uno in estate e uno in inverno. Rispetto alla richiesta del nostro amico, direi che se l'obiettivo estivo è prevalentemente cardiovascolare, cioè migliorare la resistenza, dovrebbe privilegiare la bici da strada. Se invece l'obiettivo è mantenere un elevato livello di forza ed allenare i muscoli, allora sarebbe meglio la mountain bike, che consente un allenamento più variato e quindi più efficace a livello muscolare. Dottor Confallonieri, questa bici in acqua? Sì. Per chi? E cosa fa? Modella? Per chi ha voglia di divertirsi e di fare esercizio fisico in un modo un po' diverso. Ecco, questo è un po' il concetto. Ma è meno faticosa? No. Purtroppo no. No, è decisamente faticosa. Diciamo che ha l'effetto che magari non si sente tanto la fatica mentre la si fa, un po' perché si è in acqua, un po' perché c'è questo effetto di massaggio, di contenimento proprio tipico dell'acqua, e quindi uno ha l'impressione magari di divertirsi di più e di non fare tanta fatica. Invece si lavora contro resistenze indubbiamente elevate, quindi al termine della seduta, di colpo, quando si esce dalla vasca, si sente tutto il peso a livello delle gambe, significativo del fatto che si è fatto un lavoro comunque importante e significativo, sì. E usa, si può utilizzare questo allenamento per delle uscite poi su strada? Cioè questo movimento in acqua, con questo massaggio dell'acqua, ha una sorta, fa un allenamento, dottor Confallonieri, a chi lo consigliamo? Sì, direi di sì, anche se tutto sommato è ancora molto poco diffusa questa integrazione. Lo consigliamo a chi ha voglia di divertirsi in un modo alternativo, magari un po' stufo dello spinning da una parte, o è un po' stufo dell'acqua fitness classica o della ginnastica in acqua classica dall'altra. Ecco che c'è qualcosa che unisce queste due attività, che non ha nessun tipo di controindicazione, non presenta nessun tipo di problema, è molto facile da eseguire anche tecnicamente, molto divertente, voilà. E quindi è sicuramente valido per moltissimi. Insomma, uno sfizietto. Giorgio da Torino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. buongiorno. È in bici? Lei dov'è, Giorgio? Perché l'altro nostro ascoltatore era su un ulivo. Lei dove si trova in questo momento? Io, ahimè, purtroppo in ufficio. Ah, va bene, ok. Va bene. Allora, e vai in bici? Tra gli ulivi. Comunque sì, vado in bici, faccio circa tra i 3 e i 5 mila chilometri l'anno, dipende dagli anni. E posso dire che assolutamente mi trovo benissimo, cioè per me è la mia medicina preferita, la mia droga, non so come definirla. Quello che volevo chiedere invece al dottor Confalonieri è questo: ho sentito dire che mi hanno detto che l'anca viene caricata, ma l'articolazione dell'anca non viene caricata tanto bene, cioè viene un po' stressata, al che mi fa suonare un campanello d'allarme, perché io ho tutta una gamba ricostruita che sì, mi fa lavorare male l'anca, quindi volevo sapere, avere numi a riguardo. Grazie Giorgio. Dottor Confalonieri, ci rimettiamo l'anca andando in bici? No, anzi, anzi, direi che il ciclismo e la bici sono proprio attività consigliate nella prevenzione dell'artrosi dell'anca, che è una delle patologie che si stanno maggiormente diffondendo con l'invecchiamento della popolazione. È chiaro che c'è un sovraccarico di questa articolazione, però la teniamo in movimento, e la teniamo in movimento in assenza di peso. Quindi se la biomeccanica della pedalata è corretta, non vedo controindicazioni per chi abbia problematiche all'anca, anzi è un esercizio con una forte valenza preventiva. Esco sempre la domenica con i miei amici, ma tutte le volte arrivano puntuali crampi. Che fare? Ci scrive Luigi da Bologna. Dottor Confalonieri, questo dei crampi è un problema diffuso. Io ho letto il messaggio di Luigi, ma ce ne sono tanti simili al suo. Sì, è un problema diffuso che non riguarda soltanto il ciclismo, ma riguarda un po' tutti gli sport, ed è un problema le cui cause sono ancora un pochettino oscure. Che fare? Innanzitutto garantirsi un'adeguata idratazione, quindi anticipare la sensazione di sete. Sì. Se c'è una sensazione di sete vuol dire che c'è già uno squilibrio, e quindi bere poco, bere in modo costante, bere prima di avvertire appunto la sete. In secondo luogo, anche se ci ripetiamo, studiare bene la posizione in bicicletta, perché il crampo potrebbe essere legato a una scorretta postura e quindi una scorretta posizione della schiena. Tre, magari alzarsi ogni tanto sui pedali, cambiare un pochino la posizione, allungare la colonna, cambiare un po' la biomeccanica della pedalata, perché in questo modo si può ridurre il rischio che compaiano i crampi. Quattro, anche qui non esagerare, quindi soprattutto nelle giornate o nelle stagioni più calde, fare delle sedute che ci lasciano sempre un margine. Noi dobbiamo terminare la seduta avendo la sensazione che comunque avremmo potuto fare qualcosa di più. Dottor Confalonieri, non è che proprio abbiamo scelto la giornata giusta per andare in bici, neve, vento, Io ho trovato la neve oggi scendendo, e anche qua c'è un tempo veramente da lupi. Vede? Avevo lasciato un tempo analogo. Vabbè, speriamo che sia di buon auspicio questo nostro invito ad andare in bicicletta. Allora, io vorrei una risposta per Linda da Bergamo, che ci scrive: il mio problema sono le cosce. Posso rassodarle? Meglio lo spinning, l'hydrobike o la mountain bike? Beh, probabilmente con lo spinning, con l'hydrobike riesce a fare un lavoro più mirato, intenso e più mirato, e quindi tutte queste attività sono indicate per rassodare le cosce o comunque per tonificare le gambe. Io poi le integrerei, se vogliamo dei risultati rapidi e convincenti, con un pochino di elettrostimolazione, cioè andrei a fare poi un allenamento mirato di quei gruppi muscolari che non vengono coinvolti nella meccanica della pedalata. Ci date qualche fonte attendibile da cui attingere informazioni su posizioni in bici, scelte, dimensioni? Dottor Confalonieri. Cioè noi abbiamo il dottor Confalonieri, questo abbiamo. Sì, però la distanza è un po' difficile. No, direi che ormai ci sono moltissimi esperti un po' in tutte le zone d'Italia che sono in grado di mettere una persona sulla bicicletta, quindi direi che se ci si rivolge al proprio ciclista di fiducia, ecco, il consiglio è indicarci qualcuno, affidarsi ad un venditore capace, che non tanto al venditore come tale, ma il venditore dovrebbe saperci indicare chi nella zona è in grado di fare questo lavoro in modo adeguato, perché poi esistono anche diversi libri, però indubbiamente è difficile fare la cosa partendo da un libro, perché è proprio qualcosa che deve essere fatto praticamente da qualcuno che ci vede sulla bicicletta. Andiamo a Taranto, ci aspetta Michele, 824 0024, benvenuto, buongiorno Michele. Buongiorno. Senta, io uso la bicicletta quasi quotidianamente. Normalmente percorro, per andare all'uso, per andare a lavorare, percorro mediamente circa, tra andata e ritorno, 50 chilometri. Sì. Ecco, vorrei sapere, con l'avanzare degli anni, se ci sono particolari accorgimenti da attuare o se posso continuare così normalmente, cioè senza problemi. Grazie Michele. Dottor Confalonieri, una cinquantina di chilometri sulle gambe ogni giorno è un buon allenamento, sicuramente quello di Michele, ma dice in futuro cosa succederà? Secondo me deve, può continuare. L'allenamento è impegnativo, nella fine dell'anno di chilometri ne fa sicuramente tanti, però come abbiamo già detto la bicicletta è uno sport, un'attività che veramente si può proseguire fino ad età avanzata, com'è nella tradizione dal certo, parte del nostro paese, no? Quindi direi vada avanti tranquillo, se non insorgono problemi specifici, finché lavora sicuramente può andare avanti e andare in bicicletta, poi con la pensione vedremo. Il mio dilemma è lo spuntino, cosa prendere prima di uscire, cosa mangiare durante l'attività, ci scrive Luca da Roma. Dottor Confalonieri, Luca aggiunge che lui ha molto appetito, però non so se questa indicazione può esserle d'aiuto. Sì, durante l'attività l'ideale è prendere, come abbiamo detto, degli zuccheri, quindi dei carboidrati, e quindi o il pane con la marmellata, o il pane col miele, o la fetta di torta, o le maltodestrine in barrette che si trovano nei negozi di integratori. Prima, se l'uscita è lunga, conviene fare prendere una pietanza proteica, quindi un panino con del prosciutto, un panino con del formaggio, e se invece è breve, anche qui vanno bene i carboidrati, soltanto prima e non durante a questo punto. Allora, adesso che abbiamo pedalato, possiamo anche sederci a tavola, concederci una buona cenetta. In linea con noi abbiamo Roberta Schira. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Avevamo un appuntamento con Roberta Schira ieri, perché avremmo voluto già mettere gli uomini ai fornelli ieri, alla loro festa, poi il tempo, le telefonate, insomma abbiamo detto no, per oggi non cucinate, iniziate a cucinare da domani, ma non tanto perché vogliamo scaricare su di loro un lavoro che, no, una fatica, ma proprio perché cucinare fa bene. In linea con noi, insieme a Roberta, abbiamo anche il dottor Franco Confalonieri, che è il nostro ospite fisso del venerdì, che è un ottimo cuoco. Allora Roberto, tu hai una teoria, no? La cucinoterapia è proprio quasi una filosofia di vita. Sì, esatto, questo è un libro che è uscito, però in realtà è proprio un approccio al cibo ed un libro sull'atto di cucinare in sé, più che sul cibo, è focalizzato proprio sull'atto di cucinare. Il segreto sarebbe tentare di trasformare quello che è un'incombenza quotidiana, non sempre piacevole, in un'opportunità. L'opportunità di fare qualcosa per noi e per gli altri, quindi questo è il segreto della cucinoterapia, cioè farsi del bene, perché può diventare veramente un antidepressivo, è un modo per aumentare l'autostima. E quindi trasformare questo processo di dovere in piacere. Perché in effetti ai fornelli ci si rilassa, si inventano dei piatti, si provano dei nuovi sapori. A me piace molto cucinare, ma volevo sentire il nostro uomo, il dottor Confalonieri ai fornelli. Lei come si sente ai fornelli? Realizzato? Bene, bene, particolarmente bene, e per me però è fondamentale poter inventare, poter creare, cioè è necessario proprio poter ogni volta improvvisare, perché poi gratifica molto vedere il risultato della propria improvvisazione, anche un po' indipendentemente dal risultato, che qualche volta è buono, qualche volta è un po' meno buono. Ecco, se c'è questo elemento di creatività, io trovo che davvero faccia del bene e aiuti sia a rilassarsi sia ad accrescere l'autostima. Ovviamente se lo facciamo per qualcun altro questo aumenta, se lo facciamo solo per noi si riduce un po' l'effetto positivo. Roberta, dovresti però dire che fa parte della terapia anche mettere a posto dopo aver cucinato. Esatto. Questo allora, funziona dire benissimo, vero? Sì, infatti, davanti ai fornelli si scatena un po' la competitività, sia tra uomini che tra donne, ma soprattutto tra uomini. E poi c'è una regola fondamentale, davanti ai fornelli deve comandare una persona sola. quindi se scegliete di lasciare insomma il grembiule e la cucina al vostro compagno, partner, al marito, dovete uscire dalla cucina voi, poi raccomandandovi appunto di trovare un po' di ordine, perché in due davanti ai fornelli non è, ci vuole uno che comanda e uno che obbedisce, questo è ormai assodato. Questa è la ricetta, e poi soprattutto ricordare di mettere a posto. Allora, grazie a Roberta Schira per essere stata con noi. Ricordo Cucinoterapia, curare, accudire, amare se stesse e gli altri con il cibo, Edizioni Salani. Ringrazio il nostro amico del venerdì, il dottor Confalonieri, ma il prossimo venerdì sarà qua in carne e ossa. Senz'altro. Più carne che ossicine. Mezzo e mezzo. Intanto io vi aspetto domani con Questa casa non è un albergo, e lunedì ci sentiamo dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.